Tra amore e guerra, nelle strade di un'Italia divisa, un ragazzo scopre l'importanza della scelta del coraggio delle proprie azioni, in un vortice antieroico dibattuto tra l'amore e la resistenza, nel punto esatto in cui nascono le domande che non hanno risposta. Michele Sorrentino ci introdurrà nelle pagine del capolavoro di Beppe Fenoglio, Una questione privata. Beppe Fenoglio è uno scrittore italiano del Novecento che racconta la resistenza in modo realistico e antiretorico. Partigiano lui stesso, descrive la guerra attraverso antieroi solitari. Una delle sue opere principali è proprio Una questione privata. Durante la resistenza italiana si combatteva per la libertà, contro il fascismo e l'occupazione nazista. Ma in Una questione privata di Beppe Fenoglio, la battaglia più feroce non è solo quella combattuta con le armi. È una battaglia interiore, silenziosa, privata. Questo romanzo, pubblicato postumo nel 1963, è ambientato nelle Langhe del 1944 e racconta pochi giorni nella vita di un partigiano, Milton. Eppure, in quei pochi giorni, Fenoglio riesce a concentrare amore, guerra, dubbio e ossessione. Milton è un giovane partigiano colto, introverso e diverso dagli altri. All'inizio del romanzo torna a una villa che frequentava prima della guerra, luogo legato al ricordo di Fulvia, la ragazza di cui è innamorato. Qui scopre qualcosa che lo sconvolge. Forse Fulvia aveva una relazione con Giorgio, suo migliore amico e compagno di lotta. Da questo momento la guerra smette di essere il centro della storia. Il vero motore del romanzo diventa il dubbio. Milton non sa se ciò che ha sentito è vero, ma non riesce a convivere con l'incertezza. La sua esigenza non è politica, non è ideologica, è personale, è una questione privata. Quando Milton scopre che Giorgio è stato catturato dai fascisti, decide di salvarlo, catturando a sua volta un prigioniero da scambiare. Ma questa missione ha un doppio significato: salvare l'amico in primis, ma soprattutto tenere in vita la possibilità di conoscere la verità. Il romanzo segue Milton attraverso colline immerse nella nebbia, pioggia incessante, sentieri fangosi. Il paesaggio non è mai neutro, sembra riflettere il suo stato d'animo. È un ambiente ostile, confuso, proprio come la sua mente. Milton non è un eroe tradizionale, non combatte per gloria, né per un ideale assoluto. È fragile, solitario, ossessionato dal dubbio. La sua azione nasce da un conflitto interiore. Non riesce a tollerare l'incertezza sull'amore di Fulvia, e questo lo spinge ad agire in modo quasi compulsivo. In questo senso, Milton può essere accostato all'antieroe di Italo Svevo, in particolare a Zeno Cosini, protagonista della Coscienza di Zeno. Anche Zeno è un uomo incapace di decisioni nette, continuamente bloccato dall'analisi di sé, dal dubbio, dall'insicurezza. Se Zeno rimanda sempre l'azione, Milton compie l'errore opposto. Agisce senza lucidità, spinto da un'ossessione. Entrambi rappresentano l'uomo novecentesco, ma in due modalità diverse. Zeno è l'antieroe dell'inazione, Milton è l'antieroe dell'azione cieca. Zeno si rifugia nell'autoanalisi, Milton nel movimento continuo. Ma il risultato è simile, perché nessuno dei due raggiunge una vera soluzione. In Svevo, la malattia diventa una condizione esistenziale. In Fenoglio, il dubbio amoroso diventa una ferita che non può rimarginarsi. Sia Zeno che Milton sono personaggi che non riescono a trovare un equilibrio tra ragione e vita, e proprio per questo incarnano la crisi dell'uomo moderno. Uno dei temi centrali del romanzo è l'amore, ma non un amore salvifico. Fulvia non è quasi mai presente direttamente, è un'assenza, un ricordo, un'ombra, e proprio per questo diventa totalizzante. L'amore in Fenoglio non consola, consuma. Milton è disposto a rischiare la vita, la missione partigiana, persino il senso della lotta collettiva, pur di sapere se è stato tradito, e in questo modo la guerra passa in secondo piano. La storia generale, quindi, viene sovrastata dalla storia individuale. Fenoglio offre anche una visione molto lontana dalla retorica della resistenza. Non ci sono eroi senza macchia né azioni gloriose. La guerra è confusa, disorganizzata, spesso assurda. I partigiani sono uomini e come tali sbagliano, hanno paura, agiscono per motivi personali. E in questo senso, Una questione privata non è un romanzo celebrativo, ma tragicamente realistico. Il momento finale del romanzo è una novità fondamentale. Milton corre sotto la pioggia, viene colpito, cade a terra. E il romanzo si chiude così, senza dirci se sopravvive, senza dirci nulla su Fulvia, senza darci la verità che Milton ne cercava. È un finale aperto, volutamente incompiuto, perché Fenoglio sembra voler dirci che la verità, nella vita, spesso non arriva e che l'uomo moderno deve imparare a convivere con questa mancanza. Una questione privata non parla solo della resistenza, parla dell'uomo davanti all'incertezza, dell'impossibilità di conoscere pienamente l'altro e forse anche se stessi. La vera questione privata, quindi, non è sapere se Fulvia abbia amato Giorgio, ma il bisogno umano di certezze in un mondo che non le concede. Ed è proprio per questo che questo romanzo, pur raccontando una guerra di 80 anni fa, continua a parlarci ancora oggi.